29 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 29 dicembre. Ieri sono stato a girare col cavalier Metello, che è un signore amico di Collalto, molto istruito e che sa la storia d'ogni monumento dall'A alla Z. Mi ha portato a vedere il Colosseo, che anticamente era un anfiteatro dove facevano i combattimenti degli schiavi con le bestie feroci e le matrone si divertivano a veder mangiare i cristiani vivi. Com'è bella Roma per uno che abbia passione per la storia e che grande varietà di paste al caffè Aragno dove sono stato ieri sera con mia sorella. Stamani andiamo con lei a fare una passeggiata a Ponte Molle. Torno ora da Ponte Molle, dove sono stato in tramvai con Luisa. Le ho domandato perché si chiama Ponte Molle, ma lei non lo sapeva, e allora ci siamo rivolti a un uomo di lì, il quale ha detto: «Si chiama Ponte Molle perché è sul Tevere, che è sempre molle, ossia bagnato a questo modo, e non è come tanti altri fiumi che appena vien l'estate si asciugano subito». Quando ho detto questa cosa, il cavalier Metello, che è venuto poco fa per fissare la passeggiata di domani, si è messo a ridere a crepapelle e poi, ritornato serio, ha detto: «Questo ponte si chiamava anticamente Molvius e anche Mulvius, ed è pure chi lo chiamava Milvius, ma il nome che ha ora è forse una corruzione dell'antica denominazione Molvius, nome che deriva probabilmente dal colle che gli sovrasta di faccia, sebbene molti si ostinino nella denominazione Milvius, facendola derivare da Emilius, ossia da Emilio Scauro, che si crede sia stato il costruttore del ponte, mentre d'altra parte è provato che lo stesso ponte esisteva un secolo prima che nascesse Emilio Scauro, tanto è vero che Tito Livio dichiara che quando il popolo di Roma andò incontro ai messi che portavano la notizia della vittoria contro Asdrubale, traversarono proprio quel ponte». Il cavalier Metello è molto istruito e certo pochi possono vantarsi di sapere la storia romana come la sa lui, ma in quanto a me, dico la verità, mi persuadeva più la spiegazione che mi ha dato stamani quell'uomo che tutti i Milvius, i Molvius e i Mulvius del cavalier Metello. Fine del 29 dicembre.